Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. L'Europa, che dopo l'esito delle elezioni tedesche del 24 settembre scorso, pare sempre più una sorta di vascello che naviga a fatica in acque impervie. Ecco, l'Europa come si sta attrezzando ad affrontare le sfide geopolitiche imposte dal nuovo corso dell'America di Trump e dalle nubi che si addensano a est e a ovest del pianeta, dal Mare del Nord al Mediterraneo? Da qualsiasi angolo visuale lo si osservi, il confronto con la Russia di Vladimir Putin resta indispensabile ed è proprio la Germania a dover ritrovare il bandolo della matassa. Di questi argomenti si occupa il libro di cui discutiamo questa sera. Il titolo è già di per sé significativo: Gerussia, l'orizzonte infranto della geopolitica europea, scritto dal giornalista e saggista Salvatore Sant'Angelo e pubblicato da Castelvecchi. Sant'Angelo è il nostro ospite questa sera. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie. Allora, le nubi che si addensano minacciose sull'Europa, dicevamo poc'anzi. Ecco come sono presentate nel libro. A nord, la Svezia e le Repubbliche Baltiche sono in fibrillazione. La crescita esponenziale del debito sovrano e il rischio che, come in Spagna, possa deflagrare una paurosa bolla immobiliare minacciano la tenuta del sistema bancario dell'Europa settentrionale. L'Ucraina, sul fronte orientale, è una ferita aperta e la Russia ha dimostrato cosa è in grado di fare quando sente minacciati i suoi interessi. A est dell'Ucraina, un arco di crisi potrebbe dispiegarsi partendo da Kiev fino alla Grecia e alla Turchia, travolgendo i Balcani, la Moldavia e la Macedonia. L'Africa settentrionale è un vaso di Pandora, dalla Tunisia all'Egitto, passando dalla Libia. E con il suo corollario di miseria e violenza diffuse, mette in moto centinaia di migliaia di migranti. Nel vicino Oriente, al mai risolto conflitto tra israeliani e palestinesi, si sono aggiunte la variabile impazzita dell'ISIS e la spregiudicata politica perseguita dalla Turchia e dal Qatar in Libia e in Siria. E poi le tensioni legate agli accordi sul nucleare iraniano, ancorché ora sconfessati da Trump, per finire con il naufragio di fatto dell'accordo sul commercio transatlantico tra Europa e Stati Uniti. Allora, prima domanda, Sant'Angelo, come si sta attrezzando l'Europa per far fronte a queste nubi? E all'interno dell'Europa qual è il ruolo che può giocare la Germania che esce da elezioni un po' complicate, insomma, con una maggioranza ancora da definire, nei confronti della Russia di Putin? Ma non mi sembra che ci sia una risposta univoca da parte dell'Europa, anzi gli stati nazionali procedono in ordine sparso. La Germania certamente è in grado di esercitare un'egemonia riluttante sul continente, ma dobbiamo aspettare che cosa accadrà nella composizione estremamente difficile della coalizione giamaica, che è quella che in qualche modo è uscita dalle urne nell'ultima tornata elettorale tedesca. Ecco, nel libro si parla ovviamente della Russia di Putin, e si ricostruisce un po' la storia dell'avvento di Putin al potere. Ecco, ma chi è Putin? Cioè, come confrontarsi con un personaggio come Putin? Allora, diciamo che quella di Putin è una personalità estremamente complessa. Il tratto caratterizzante è il pragmatismo e la difesa dell'interesse nazionale, quindi questa è la cornice in qualche modo all'interno della quale bisogna orientarsi per avere a che fare con una Russia che, come ha affermato anche l'ambasciatore Sergio Romano, è tornata ad essere una grande Russia, quindi si è ripresa dalla catastrofe, in qualche modo si è ripresa dalla catastrofe geopolitica che ha caratterizzato la fine del XX secolo, quindi la distruzione dell'Unione Sovietica, e tende ad esercitare un ruolo geopolitico nel, quantomeno se non su scala globale, sulla propria area di influenza regionale, nell'Europa orientale, nel continente eurasiatico, con proiezioni, come abbiamo visto, anche in Siria e nel Medio Oriente. Quindi un autore di primo piano che va rispettato, anche temuto, ma con cui si possono fare degli accordi, e la Germania con grande pragmatismo lo fa. In piena vigenza delle sanzioni, infatti, stiamo discutendo in questi giorni del raddoppio di Nord Stream, una grandissima infrastruttura energetica pensata proprio per superare ed affrontare le tensioni geopolitiche dell'Europa centro-orientale. Ecco, si parla nel libro, c'è un paragrafo dedicato a una nuova Ostpolitik. è quella che si sta per prefigurare oppure no, oppure siamo lontani? Tanto ricordiamo ai nostri ascoltatori di cosa parliamo. Ma parliamo di una traiettoria strategica, sì, che vede un rapporto privilegiato tra Mosca e Berlino. Sì. Lo dice già il titolo, Gerussia in qualche modo intende ad individuare una trama di rapporti culturali, economici e soprattutto energetici tra queste due grandi potenze. E questo nonostante le tragedie del Novecento, due guerre mondiali combattute, la Germania come paricentro del conflitto nella guerra fredda, quindi veramente una storia di tragedie e tensioni. Ma nonostante questo, in qualche modo le classi dirigenti dei due paesi, e anch'io nel mio libro, intravedono un percorso possibile. Già Keynes aveva avuto in questo senso un'intuizione, perché nei suoi appunti all'atere della conferenza di pace di Versailles, sì, lui dice: il destino storico della Germania è la modernizzazione del paese degli zar, e questo in qualche modo sta accadendo. Quello sulle conseguenze economiche della pace. Esatto. Il punto più alto di questo rapporto negli anni recenti c'è stato certamente nella relazione tra Schröder, cancelliere tedesco socialdemocratico, che oggi siede nel consiglio degli stakeholder proprio di Nord Stream, e Putin. Tra Putin e la Merkel i rapporti sono certamente più difficili, ma in entrambi i paesi esistono dei gruppi di interesse che lavorano per mantenere vivo questi canali di comunicazione, di sviluppo, e soprattutto tengono ben presente che il rapporto energetico è fondamentale per entrambi i partner. Facciamo insieme un passo indietro, andiamo alla caduta del muro da cui tutto origina, la caduta del muro di Berlino, la riunificazione della Germania, il crollo dell'Unione Sovietica. Ecco, nel libro si scrive correttamente che tutto ciò ha portato a ridefinire i confini della Carta dell'Europa e spinto la relazione russo-tedesca verso una nuova dimensione. Però tutto ciò, almeno fino alla crisi ucraina del 2014. Ecco, da allora cosa è accaduto? Ma diciamo che questo arco di crisi, che non deve essere letto in modo isolato, perché se noi guardiamo la carta geografica del continente eurasiatico, vediamo che queste crisi che esplodono quasi contemporaneamente in Ucraina e anche nella mezzaluna fertile, di fatto infiammano le possibili linee di comunicazione, le rotte di interconnessione energetica e logistica tra la Cina, la Russia e l'Europa. Quindi di fatto queste crisi stanno impedendo o rallentando la possibilità di un'integrazione più forte sul continente eurasiatico. La crisi ucraina chiaramente riapre le antiche ferite del Novecento, di conflitti dove il peso della memoria, della storia, delle contrapposizioni rischia di riaprire scenari che immaginavamo in qualche modo tramontati. E la Germania si trova a dover gestire una doppia contraddizione. Da un lato questa traiettoria strategica che abbiamo descritto, appunto, del tentativo di costruire una relazione, un rapporto sempre più forte e sempre più stretto con la Russia, e dall'altro il tema dell'allargamento verso ad est delle istituzioni comunitarie. Sappiamo che la Germania è stato uno dei principali sponsor dell'allargamento, le sue pressioni sono state determinanti per convincere Prodi, che allora presiedeva la Commissione Europea, a spingere per l'allargamento. Questi paesi, le Repubbliche Baltiche, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, sono parte integrante della catena del valore del sistema produttivo tedesco, tante imprese tedesche sono state delocalizzate in questi territori, ma tutti questi paesi, e diciamo sarebbe difficile immaginare qualcosa di diverso visto il peso della storia, sono profondamente russofobe o quantomeno temono questo ingombrante vicino. E quindi diciamo oggi la Germania deve in qualche modo trovare un punto di equilibrio tra queste due pesanti contraddizioni. E quindi nuovamente il cerino è nelle mani di Angela Merkel, e qui facciamo una riflessione insieme. L'esito delle elezioni del 24 settembre lascia prefigurare appunto la formazione di questa coalizione giamaica con CDU, liberali e verdi. Ecco, ma questa eterogeneità di coalizione che tipo di politica può condurre, cioè può partorire verso l'Europa? Cioè si va verso un irrigidimento delle posizioni su quelle dei liberali, quindi l'austerità, eccetera, oppure verso quell'europeismo che Macron sembra disposto a cavalcare? Diciamo innanzitutto che i liberali hanno una strana posizione nei confronti della Russia, perché sarebbero persino disposti a considerare l'occupazione della Crimea come ormai un dato di fatto da accettare e una nuova politica di potenza da parte appunto di Mosca. Quindi in qualche modo potrebbe lasciarci intendere un percorso di pacificazione, di alleggerimento delle sanzioni in vista di una maggiore integrazione, quantomeno sul campo energetico ed economico. Chiaramente questo cozza con le ultime scelte politiche della Merkel e soprattutto dei Verdi, che invece mettono l'accento su argomenti come i diritti delle minoranze, la libertà di informazione e di espressione, e quindi non sarà anche in questo caso riuscire a trovare il giusto punto di equilibrio. E queste stesse contraddizioni che registriamo nei confronti della Russia esponenzialmente si proietteranno nei confronti di tutti gli altri paesi dell'Europa. Quindi io penso che in qualche modo l'approccio tedesco anche in questo caso sarà poco ideologico e molto pragmatico, per cercare di salvare quello che resta di un'unione di cui forse abbiamo visto il punto più alto e di cui oggi invece stiamo misurando una parabola discendente. Quindi i tedeschi cercheranno di preservare delle istituzioni comunitarie che possano difendere quello che loro di fatto hanno conquistato, anche con pesanti violazioni nei confronti dei regolamenti comunitari, pensiamo solo al surplus della bilancia commerciale. I tedeschi sono molto bravi nel puntare il dito nei confronti degli errori degli altri partner, pensiamo alla Grecia o anche l'Italia per quanto riguarda lo sforamento del 3% o di altri parametri stringenti nei confronti del bilancio, ma nessuno ha il coraggio di o la forza o l'autorevolezza per fare altrettanto nei loro confronti. Quindi vedo un'Europa che sempre più si divide su due velocità, un'Europa centro-settentrionale sempre più legata, integrata intorno alla Germania, e le periferie dell'Europa che invece vengono attratte da altri poli di influenza, la Gran Bretagna post-Brexit che rientra a pieno titolo nell'anglosfera, certo. La Spagna, la Grecia, il Portogallo e l'Italia che rischiano, a questo punto dobbiamo dirlo, di naufragare nel caos del Mediterraneo. Bene, allora tante grazie a Salvatore Sant'Angelo, lo ripetiamo, autore di questo interessante libro Gerussia, l'orizzonte infranto della geopolitica europea. Buona serata e grazie ancora. Grazie a voi.